Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Un saluto da Maurizio Melis. Forse verrà il giorno in cui potremo, chi lo sa, insomma, presentarci davanti a un giudice con un robot come avvocato. Ad oggi questa prospettiva appare remota, molto più da film di fantascienza che non altro, ed è anche molto difficile immaginare quando eventualmente uno scenario del genere possa concretamente realizzarsi. Quello che invece già oggi può accadere è che un'intelligenza artificiale sia utilizzata per affiancare il lavoro di uno studio legale nelle sue attività quotidiane, ed è precisamente ciò che si sta sperimentando per la prima volta in Italia presso lo studio legale Portolano Cavallo, uno dei 50 studi legali più innovativi d'Europa secondo il Financial Times, specializzato su temi legati all'innovazione e alla digitalizzazione, quindi dall'Internet of Things ai Big Data, dalla tutela della privacy alla lotta al cyberbullismo, eccetera eccetera. Insomma, per parlarci di questa esperienza c'è in linea l'avvocato Francesco Portolano, partner dello studio Portolano Cavallo. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, senta, intanto di quale tecnologia vi state avvalendo e qual è il compito per cui questa tecnologia nasce? La tecnologia si chiama, è un software che si chiama Luminance, che è sviluppato da un gruppo di sviluppatori, appunto, di scienziati dell'Università di Cambridge. E il compito del software è un compito che, diciamo, tecnicamente nel mondo legale viene definito come due diligence, che tradotto in termini, diciamo, atecnici per tutti, vuol dire semplicemente analisi. Le faccio, se vuole, un esempio, un esplicativo. Sostanzialmente nelle attività di acquisizione di un'azienda, il compratore, così come quando compriamo una casa, certo, il compratore vuole avere un'analisi dell'azienda che compra, e tra le varie analisi che fa un'analisi legale. Quindi, per esempio, vuole vedere tutti i contratti di questa azienda, vuole capire se questi contratti presentano delle criticità. Luminance nasce per fare questa attività di analisi. Quindi noi utenti prendiamo la documentazione della società in forma digitale, evidentemente, la carichiamo, facciamo un upload della documentazione sulla piattaforma Luminance, e Luminance restituisce un'analisi di questa documentazione, un'analisi che fondamentalmente fa due cose. La prima cosa che fa una catalogazione, certo. Cioè, questo, immagini lei, catalogare, dico, per esempio 10.000 documenti, certo, che deve fare una persona, ci mette banalmente in che lingua sono scritti, a quale corpus legislativo fanno riferimento, per esempio, cose di questo genere. Assolutamente, anche, no? Sì, ma va anche oltre, ti dice, per esempio, di questi 10.000, 5.000 sono contratti di lavoro, 2.000 sono contratti, certo, di affitto di immobile e quant'altro. Se lo facesse un umano ci metterebbe delle giornate, se lo fa il software ci mette un paio d'ore. Certo. Questo è il primo livello. Il secondo livello, poi, in realtà, e questa è la parte vera di intelligenza artificiale, a dire la verità, va all'interno del documento e a margine del testo tagga, un brutto, sì, anglicismo, sì, ma sì, sì, però ormai dire, invalso, sì, invalso, tagga le singole clausole, evidenziandole quindi secondo una categorizzazione che è proprio, ovviamente, delle problematiche legali. Quindi segnala, per esempio, la clausola del prezzo, la clausola con il diritto di recesso, la clausola con altri tecnicismi legali su cui non, certo, vado, certo, non certo, vale la pena. Ecco, quindi in qualche modo questo, come dire, lei un po' mi sta già rispondendo a quella che voleva essere la domanda successiva, cioè quali compiti immaginate che possa svolgere nel vostro studio, nella vostra attività quotidiana, questa intelligenza artificiale? Questi che mi ha descritto, fondamentalmente. Sì, diciamo che chiaramente questo è un compito che prima facevano solamente, diciamo, noi professionisti. Ora, ovviamente, questa attività va a supporto, perché questo non esclude un'analisi da parte delle persone, ovviamente, almeno in questa fase in cui l'intelligenza, certo, quantomeno esattamente intelligente. Resta la necessità poi, appunto, di approfondire. Diciamo che questo software fa una classificazione, fa una scrematura, se così possiamo dire, assolutamente, cui fa emergere gli aspetti problematici, dove magari poi un avvocato carne e ossa deve metterci la testa, quella fatta ancora con i neuroni biologici. Senta, voi non solo utilizzate, avete cominciato a utilizzare questa tecnologia, essendo i primi in assoluto, voi in realtà state istruendo, state insegnando a Luminance a capire l'italiano, a capire il legalese italiano, che tra l'altro non è tra i linguaggi più facili. Ecco, intanto concretamente in cosa consiste il vostro lavoro? Allora, che cosa stiamo facendo in concreto? Potremmo fare un parallelo, diciamo. Il software di intelligenza artificiale, per loro definizione, apprendono con l'utilizzo, quindi sono capaci, diciamo, di apprendere, se no non si parla di intelligenza artificiale, ma si parla di qualcos'altro. Quindi non hanno necessità, come dire, di un insegnamento specifico, non dovrebbe, e comunque in futuro continuerà ad apprendere anche quando noi abbiamo cessato, diciamo, la nostra attività. Però noi stiamo facendo un po' quello, come dire, fare un parallelo tra imparare una lingua utilizzandola, che è quello che farà il software a regime, e imparare una lingua con un professore che ti insegna le regole, certo, ti insegna le categorie, ti insegna i tempi dei verbi e le declinazioni se stai studiando per esempio il latino. Quindi fornite un po' i fondamentali, diciamo, no? Assolutamente sì. Quindi stiamo facendo una catalogazione, una analisi dei concetti che deve metabolizzare, che deve, diciamo così, mandare a memoria, così che poi quando dopo gli altri studi, altri utenti lo utilizzeranno, si troveranno, diciamo, un substrato più, diciamo, già più fertile. Certo. E procederà più celermente, ovviamente, poi in futuro. Quindi è un lavoro, diciamo, anche di analisi da parte nostra, di riflessione da parte nostra, che stiamo trovando molto utile, a dire il vero. Ecco, possiamo dire in qualche modo che è un po' come istruire un bambino, nel senso, una cosa che si sa molto bene ormai su come il cervello e i bambini apprendono il linguaggio è che in realtà buona parte del loro apprendimento passa dal fatto che, non so, quando gli diciamo tazza la indichiamo anche. Questo esempio è calzante perché se noi prima di iniziare l'apprendimento formale, chiamiamolo l'apprendimento, diciamo, da professori, che stiamo facendo adesso, comunque l'avevamo utilizzato già un po' in italiano per testarlo, e il software in realtà già riconosceva, quando noi identificavamo per esempio una clausola, anche lì una clausola particolare, la taggavamo e la etichettavamo, il software già dopo qualche iterazione, non centinaia, quando noi l'avevamo cominciava fatto, a capire la di volte, già cominciava a riconoscerla, sì, no? Sì. È un po' come un bambino che magari all'inizio confonde l'automobile e il motorino, il trattore, capisce, ecco, sì, che sono un unico, fanno parte di un concetto più grande che unico, quindi è assolutamente, assolutamente così, e quindi è estremamente, diciamo, interessante, devo dire, anche per noi, perché è un po' una scoperta anche per noi, ecco. Ecco, in qualche modo vi costringe anche, appunto, a ripensare le vostre categorie mentali, a raffinarle. Possiamo dire che ha un po' questo effetto fare questo tipo di lavoro? Ha un effetto enorme in questo senso. Cambierà completamente il modo in cui lavoriamo, ed è un territorio che io ho già definito in altri contesti, secondo me è un territorio inesplorato, che a noi piace esplorare tra i primi o per primi in Italia. Cambierà il modo in cui lavoriamo, cambierà il modo in cui interagiamo, diciamo, con i clienti, nel senso che le nostre responsabilità nei confronti dei clienti, cambierà i tempi di reazione nei confronti dei clienti, cambierà quindi le aspettative nei confronti dei clienti, cambia sicuramente i profili di formazione e di crescita dei collaboratori, perché naturalmente prima l'attività che veniva fatta dal software era un'attività che in qualche modo aveva anche una valenza formativa. Oggi questa parte formativa diventa quantitativamente molto minore, e quindi bisogna capire se bisogna sostituire questa formazione on the job che facevano prima i collaboratori con un'altra formazione, certo, specifica. Quindi diciamo che a livello operativo, finanziario, a livello di riflessione, di categorie, cambia completamente il modo di lavorare. Grazie Francesco Portolano, e insomma in bocca al lupo per questa esperienza. Grazie a lei, credi. Va bene, abbiamo concluso anche per questa sera, appuntamento come sempre a domani.